tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La insegue e le stringe un laccio al collo, torna fuori dal carcere dopo 48 ore perché secondo il GIP non tentò lo stupro. Continua a salire l'inflazione, crescita ai massimi da 4 anni, il cosiddetto carrello della spesa sale del 3,1%, mai così dal 2009. Stasera primo discorso al congresso di Trump, il presidente annuncia un aumento delle spese militari per 54 miliardi di dollari. Ospedale Loreto Mare, l'impiegato che timbrava e andava a fare lo chef era già stato sospeso per un'assenza. De Luca propone l'accesso con le impronte. Il ritorno di Montalbano in TV con un nuovo episodio fa il botto di ascolti, 10 milioni di telespettatori con il 40% di share. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. C'è la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, e infine l'email effettogiorno@radio24.it. In apertura dunque la storia di cronaca che arriva da Firenze. Obbligo di dimora a Fiumicino, dove lavora come bracciante. Nessuna misura cautelare per il cittadino indiano di 29 anni che nella notte fra il 21 e il 22 febbraio ha aggredito a Firenze una ragazza di 23 anni tentando di strangolarla con il laccio del suo cappuccio. Il GIP che lo ha interrogato nel carcere di Sollicciano ha convalidato il suo arresto per il solo reato di lesioni personali aggravate, ma non per quello di tentata violenza sessuale. E dopo 48 ore in carcere il giovane nel libero, con sommo stupore dei magistrati della procura che faranno ricorso in Cassazione. Il GIP si legge che riconosce la estrema brutalità dell'atto, ma per quanto riguarda la finalità di violenza sessuale solleva molti dubbi perché non c'è stato palpeggiamento, nessun tentativo di spogliare la ragazza. Eppure al GIP l'indiano avrebbe detto la volevo, ma secondo il magistrato non parla bene l'italiano e resta da verificare la storia da lui raccontata, quella di un furto. Una coppia che gli aveva sottratto alla stazione poco prima il cellulare, l'indiano che ha aggredito ubriaco la giovane scambiandola per la ladra. Eppure la vittima ha visto un cellulare nelle mani dell'aggressore che non le è sembrato affatto ubriaco. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questo torneremo a parlare più avanti nel nostro giro per l'Italia. Lo faremo con il procuratore, il capo della Procura della Repubblica di Firenze, Giuseppe Creazzo. Veniamo ai dati dell'Istat sull'inflazione. Non molla la presa neanche a febbraio, l'aumento dei prezzi, anzi è record. Volano in particolare quelli del carrello della spesa degli italiani, che vedono a febbraio 2017 l'aumento maggiore da 8 anni. I prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, secondo i dati provvisori dell'Istat, aumentano infatti dell'1,1% su base mensile e del 3,1% su base annua. Per trovare una crescita tendenziale maggiore bisogna tornare a febbraio 2009, quando l'incremento era stato del 3,3%, e sono i prezzi della verdura a trainare verso l'alto i rincari, raggiungendo picchi che però sono transitori, secondo Roberto Monducci, capo del Dipartimento di Statistiche Economiche dell'Istat. I freschi hanno avuto un aumento su base annua del 37,3%, era più 20,4% a gennaio, un dato stagionale. Sicuramente gli effetti climatici dominano ampiamente il quadro. In questo momento però è evidente che gli incrementi di prezzo di questi generi possono determinare, oltre effetti statistici, anche effetti reali sui bilanci dei consumatori. Anche la frutta fresca aumenta di 2 punti percentuali rispetto al mese scorso e l'inflazione in generale per tutti i beni non demorde, con rincari oltre che del cibo anche di energia e trasporti, si aggirano intorno al 1,5% percentuale e al top da 4 anni. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'indomani della morte di DJ Fabo si continua a discutere di testamento biologico. Sentiamo. Questa mattina all'obitorio di Zurigo l'ultimo saluto della madre a DJ Fabo, il quarantenne cieco e tetraplegico dopo un incidente che ieri ha scelto il suicidio assistito nella piccola struttura della Dignitas in Svizzera. Ad accompagnarlo l'esponente dei radicali italiani e tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, il quale a Radio 24 ha comunicato che andrà nel primo pomeriggio ad autodenunciarsi. Spero di essere incriminato e di potermi difendere in un processo, ha rivelato a Giovanni Minori. Sentiamolo. Voglio chiedere allo Stato italiano di scegliere una delle due, o fare finta di nulla, girare la testa dall'altra parte, oppure incriminarmi. Allora io vorrei poter difendere in un processo le ragioni di principi costituzionali superiori, quelli di libertà, di responsabilità, a un codice penale che non fa nemmeno distinzione tra il suicidio per un momento di disperazione e l'aiuto a un malato nelle condizioni di Fabio. L'autodenuncia di Cappato sarà valutata sotto tutti i profili giuridici, compresa la giurisprudenza della CEDU in materia di diritti, ha spiegato il procuratore di Milano Francesco Greco, precisando anche che il fascicolo verrà assegnato, quando arriverà la denuncia, al PM Tiziana Siciliano, che coordina il pool ambiente, salute e lavoro. Intanto, licenziata dalla Commissione Affari Sociali della Camera più di una settimana fa, la proposta di legge sul testamento biologico dovrebbe approdare nell'aula non prima di lunedì prossimo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da Milano, dove si trova in visita il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha toccato anche questo tema, anche se molto si è parlato della città. Maria Luisa Pezzali sta seguendo la visita di Gentiloni e l'incontro con Sala. Maria Luisa, buongiorno, vai. Buongiorno Simone, un saluto agli ascoltatori. Sì, sollecitato dai giornalisti appunto a margine della conferenza stampa a Palazzo Marino a Milano, Paolo Gentiloni si è detto colpito dalla vicenda come tutti i cittadini, ha sottolineato di DJ Fabo in merito allo stallo della legge in Parlamento, la legge sul testamento biologico. Il Premier ha detto rispetto il lavoro dei parlamentari che riguarda però le singole coscienze, ricordando che la legge in discussione non è una legge sull'eutanasia. Venendo invece ai contenuti di questa prima visita di Paolo Gentiloni Premier a Milano, si è appunto appena concluso l'incontro con il sindaco Giuseppe Sala, sul tavolo la conferma del patto per Milano firmato lo scorso settembre, un patto che prevede investimenti per la città per 2,5 miliardi di euro e il sostegno alla candidatura di Milano come sede dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. Su questo punto sentiamo il sindaco Sala. Siamo vicini al momento della verità, è una partita difficile, è inutile nascondercela, però noi la stiamo gestendo con, credo, la giusta modalità. Venerdì la visita tecnica a Londra per la messa a punto del dossier, una partita non semplice, ha sottolineato da parte sua il Premier Gentiloni, garantendo il sostegno politico in sede europea. La giornata di Gentiloni a Milano prosegue con una visita a una casa di riposo, l'incontro in regione con il governatore Roberto Maroni e poi nel pomeriggio ultimo appuntamento, una tavola rotonda sull'innovazione presso la Fondazione Feltrinelli. È tutto. E grazie a Maria Luisa Pezzali per questo aggiornamento. Milano che si prepara alla visita del Papa tra imponenti misure di sicurezza. 3.700 volontari, 2.000 agenti delle polizie locali, 1.600 uomini delle forze dell'ordine, 250 parcheggi per i pullman. Un palco da rockstar per la messa lungo 80 metri. I numeri dicono che la visita del Papa il 25 marzo a Milano sarà un grande evento che coinvolgerà almeno 600.000 persone. Una giornata fittissima che comincerà con l'incontro con alcuni abitanti delle Case Bianche di Via Salomone, segno di quella chiesa che, secondo Francesco, deve uscire da se stessa e andare nelle periferie. In mattinata l'incontro in Duomo con i sacerdoti, poi in piazza la recita dell'Angelus con la benedizione dei fedeli. Le periferie, dicevamo, non solo come luoghi fisici ma anche esistenziali. E così Francesco, prima di trasferirsi a Monza per la messa alle 15, visiterà il carcere di San Vittore e pranzerà con i detenuti. Chiuderà la visita l'incontro con i cresimandi a San Siro. Per il Papa, ha ricordato il cardinale Scola, il Vangelo supera ogni esclusione ed è un fattore di edificazione sociale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla politica italiana con le vicende che riguardano il Partito Democratico. Oggi si sono composti, sostanzialmente si stanno componendo i gruppi dei cosiddetti scissionisti del PD. Teresa Trillò, buongiorno. Buongiorno Simone a te. Sì, è così. La scissione del PD prende corpo. Questa mattina alla Camera infatti c'è stata la prima riunione dei deputati del Movimento Democratico e Progressista. Il nuovo gruppo parlamentare è costituito da 37 deputati, 20 arrivano dal PD e 17 da Sinistra Ecologia e Libertà. La riunione è stata aperta da Roberto Speranza, ex capogruppo PD a Montecitorio e leader degli scissionisti. Francesco Laforgia, sempre ex Dem, è stato eletto all'unanimità capogruppo alla Camera. Nel Partito Democratico intanto continua la discussione sulle primarie per la segreteria con Anna Finocchiaro, ministra delle riforme, che intervistata da Repubblica TV si è schierata apertamente a favore di Andrea Orlando perché dice può ricostruire. E Anna Finocchiaro ha bocciato anche la scissione perché la scommessa tradita da chi ha commesso l'errore della scissione, spiega, è che il PD non può essere un partito plurale. Da Roma è tutto, restituisco la linea. Grazie dunque anche a Teresa Trillo. Un giudice di Istanbul ha convalidato ieri sera l'arresto del giornalista turco-tedesco Deniz Yücel, corrispondente in Turchia di Die Welt, che era in stato di fermo dal 14 febbraio scorso. Un arresto sproporzionato, dice Angela Merkel. A questo è dedicata l'analisi di Daniele Biacchessi. L'ultimo ad essere arrestato è Deniz Yücel, corrispondente del giornale tedesco Die Welt, in stato di fermo dal 14 febbraio scorso. Nella Turchia di Erdogan il mestiere di giornalista è sempre più complicato, se non impossibile, a causa di una vera e propria repressione contro ogni forma di libera informazione. Gli ultimi dati diffusi da Amnesty International parlano di 118 giornalisti arrestati in attesa di giudizio e 184 organi di informazione chiusi in modo arbitrario e permanente dall'inizio dello stato di emergenza in seguito al tentato golpe del luglio del 2016. Sono numerosi i casi di censura che hanno danneggiato la libertà di parola in Turchia, tra questi la nomina di fiduciari per il gruppo editoriale Zaman, la condanna dell'ex direttore di Cumhuriyet Can Dündar e del suo caporedattore ad Ankara Erdem Gül, la chiusura del quotidiano Özgür Gündem. Ma la mossa sull'informazione deve essere inserita nel più ampio disegno repressivo turco. Le persone che esprimono dissenso, soprattutto riguardo alla causa curda, vengono minacciate di violenza e di indagine penale. È aumentata la censura su internet. 375 ONG, comprese quelle per i diritti delle donne, le associazioni di avvocati, le organizzazioni umanitarie, sono state chiuse con decreto esecutivo a novembre. Si registra in questi giorni un aumento dei casi di torture e maltrattamenti nelle zone dove è stato imposto il coprifuoco, dove resta l'impunità per gli abusi commessi dalle forze di sicurezza. Si tratta dunque di un quadro fosco che fa scivolare la Turchia agli ultimi posti della classifica mondiale sulla libertà di stampa. Cambiamo decisamente argomento. Oggi appuntamento a Napoli per parlare tra l'altro di Industria 4.0. Sentiamo. Industria 4.0, nonostante l'Italia sia molto in ritardo, il quadro complessivo segnala trend positivi e buone possibilità di recupero del gap a livello internazionale. E intanto ci sono strumenti già predisposti per gli imprenditori, osserva il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, arrivando a Napoli per partecipare alla giornata dedicata alla rivoluzione industriale 4.0 organizzata nell'ambito del centenario dell'Unione Industriali Partenopea. La legge di bilancio 2016 prevede degli strumenti molto interessanti che vanno proprio in linea di questa industria 4.0. La settimana scorsa il Senato ha approvato una maggiore intensità del credito d'imposta a investimenti nel Mezzogiorno, che è un altro elemento importantissimo. È evidente che accanto a questo, oltre a quello che occorre fare nelle fabbriche, occorre forse una società 4.0 e una pubblica amministrazione 4.0. Premendo l'acceleratore su alimentare, automotive, aerospazio, abbigliamento e farmaindustria, il 2017 promette una crescita 4.0 del 15%, osserva Massimo De Andreis, direttore generale SRM Gruppo Intesa San Paolo. Con i piani, diciamo, con gli incentivi e con gli investimenti programmati nel 2017 potrebbero svilupparsi circa 4 miliardi di investimenti. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Torna il commissario Montalbano e supera i 10 milioni di telespettatori. Il commissario Montalbano è ritornato e ancora una volta ha colpito nel segno. Ieri sera su Rai 1 è andato in onda Un covo di vipere, il primo dei due nuovi episodi dedicati al personaggio creato da Andrea Camilleri, ed è stato subito record. Lo hanno visto oltre 10 milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 40,8%. Dopo quasi 18 anni di messa in onda e 30 episodi, questo è il terzo miglior risultato in assoluto in termini di telespettatori e il secondo in termini di share. A fianco di Luca Zingaretti, guest star di questa puntata che ha trattato il tema dell'incesto, l'attrice Valentina Lodovini e Alessandro Haber. Il prossimo nuovo episodio, che andrà in onda lunedì 6 marzo, si intitola Come voleva la prassi. Luca Zingaretti. Camilleri ha opposto alla luce, alla solarità della sua terra, la Sicilia, delle storie che in questo caso sono molto cupe, che un po' poi rispecchiano il momento non felicissimo che stiamo attraversando non solo in Italia ma il mondo, insomma. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Come annunciato, partiamo da Firenze per questa vicenda che, a nostro giudizio, almeno da quel che leggiamo, ha abbastanza dell'incredibile: un aggressore violento che ha tentato di strozzare una ragazza praticamente con un cappuccio è stato già scarcerato dal GIP dopo appena 48 ore. Questa è la storia che arriva da Firenze. E poi torneremo ad occuparci dei nostri cari amici dell'ospedale Loreto Mare di Napoli, gli assenteisti, i cosiddetti furbetti del cartellino, in realtà dei veri e propri truffatori, perché arrivano dettagli interessanti. E c'è la proposta di De Luca di istituire l'accesso con l'impronta digitale, un fatto che già avviene a Salerno. Ne parleremo proprio col direttore dell'ospedale di Salerno tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati dell'inflazione che continua a salire, ci siamo occupati della vicenda di Firenze sulla quale torneremo tra un attimo, abbiamo parlato ancora della questione di DJ Fabo e della legge sul testamento biologico, della visita di Gentiloni a Milano, di politica e anche di Turchia. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, come si diceva, iniziamo da Firenze. La vicenda è questa: mercoledì all'alba viene arrestato un uomo, un cittadino indiano di 28-29 anni. Qua insomma le fonti, quantomeno quelle giornalistiche, sono piuttosto discordanti, ma più o meno l'età è quella, una trentina di anni. Perché? Perché viene accusato di un tentativo di violenza sessuale nei confronti di una ragazza. È una barista che poi nei giorni successivi scriverà una lettera al comune chiedendo maggiore sicurezza, soprattutto per le donne sole che sono costrette a lavorare di sera e che corrono rischi di questo tipo. Succede che il GIP decide che l'uomo non deve andare in carcere. Perché? Perché secondo l'interpretazione del GIP non voleva violentare la ragazza, una ragazza appunto inseguita e aggredita, e appunto con tra l'altro le è stato stretto al collo un laccio del cappuccio. Ringrazio Giuseppe Creazzo, il procuratore capo di Firenze, per aver accettato il nostro invito. Buongiorno procuratore, benvenuto. Buongiorno. Allora, qua mi sembra che diverga ovviamente la ricostruzione che fate voi, che farete ricorso come procura, da quella che dall'interpretazione che ha deciso di dare il GIP, no? Sì, confermo che stiamo già preparando ricorso per Cassazione, perché la decisione del GIP non ci convince. E qual è la vostra ricostruzione dei fatti? Come si sarebbero svolti, procuratore? No, beh, i fatti si sono svolti come ha appena descritto lei, perché questo ci ha dichiarato la ragazza, che poi ha avuto la fortuna, dopo essersi divincolata, anzi, anche grazie alla conoscenza, pare, di arti marziali, durante la fuga incontrare subito una pattuglia della finanza che l'ha immediatamente soccorsa e ha provveduto poi ad arrestare l'uomo dopo averlo rintracciato mentre stava allontanandosi. Secondo la vostra lettura c'è stato un tentativo di violenza sessuale? Ma guardi, agli atti c'è una dichiarazione dello stesso soggetto che ha spontaneamente dichiarato, sottoscrivendola, che aveva intenzione di violentarla, che quello era lo scopo dell'aggressione. Sì. E il GIP non ha creduto a questa cosa. Senta, ma dal punto di vista puramente giuridico, glielo chiedo procuratore, e questo non so se rientri nella libera interpretazione appunto di un giudice per le indagini preliminari o sia sottoposto a norme specifiche. Io rimango perplesso da cittadino, semplicemente su questo vorrei un chiarimento su questo. A prescindere dal tentativo di violenza sessuale oppure no, una persona che insegue una ragazza per un tot di chilometri e tenta di strozzarla con un laccio, tutto sommato mi sembra una persona che forse è meglio metterla in sicurezza, cioè un minimo di pericolo sociale c'è da questo punto di vista, o no? Concordo. Il GIP ha emesso una misura che è quella dell'obbligo di dimora, che noi riteniamo blanda, ma perché non ha ritenuto che ci fosse il tentativo di violenza sessuale? Però dall'altra parte, come dicevamo appunto procuratore, c'è anche questo elemento, cioè non è proprio una persona tranquilla uno che tenta di strozzare una persona col laccio del cappuccio. No. Certamente no. Certamente no. Senta, procuratore, in termini invece di sicurezza, lei ha ovviamente sotto mano la situazione di Firenze, perché né il procuratore capo, questa segnalazione, questa lettera che arriva da questa ragazza, anche molto accorata, indirizzata ai vertici politici della città e quindi al sindaco, all'assessore della sicurezza, nel quale dice, insomma, qua noi abbiamo un problema, perché dice, io per esempio non ho la macchina, sono una persona che lavora di sera, una ragazza da sola che ogni sera deve uscire, si deve fare un tot di chilometri, eccetera eccetera. C'è un problema di questo tipo e secondo lei c'è una maniera nella quale ci si può muovere? Ma guardi, Firenze è una città fra le più sicure d'Italia, il solo fatto che la ragazza, dopo essere riuscita a sfuggire immediatamente dopo, sono passati pochi secondi, ha incontrato una pattuglia della Guardia di Finanza alle 3 di notte, evidentemente Firenze è una città che è estremamente sorvegliata, evidentemente non si può prevenire qualsiasi episodio, questo fuori dalla portata di qualsiasi tipo di forza dell'ordine naturalmente, ma la sicurezza io direi è garantita, non è il mio campo, meglio di me potrebbe rispondere il prefetto, ma per quel che mi riguarda questi fatti vengono alla luce proprio perché le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, la stessa polizia municipale sono molto vigili anche durante la notte. Evidentemente la ragazza auspicherebbe che i pullman, gli autobus funzionassero tutta la notte, ma insomma, sarebbe meglio, ma questo è un problema più amministrativo che altro. Del sindaco, sì, certamente. Evidentemente. La ringrazio, grazie al procuratore capo di Firenze, buongiorno, Giuseppe Creazzo, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. E veniamo dunque alla vicenda dei nostri amici, come si diceva, dell'ospedale Loreto Mare di Napoli, quello nel quale venerdì c'è stato quel maxi blitz con 55 arresti, 94 indagati per una serie di episodi di assenteismo. Tra questi episodi di assenteismo, quello che abbiamo raccontato del medico che andava a giocare a tennis mentre doveva essere sul posto di lavoro, e la vicenda dell'uomo che andava a cucinare in un ristorante dell'area vesuviana mentre aveva timbrato il cartellino. Tra le altre storie che raccontano le cronache locali, che veramente troviamo affascinanti, è che questo uomo, lo chef, diciamo così, lo chef del gruppo, che cosa faceva? Innanzitutto era stato già sospeso un'altra volta per un'assenza non giustificata e per una ventina di giorni, ma apprendiamo che era impiegato al PRAS, l'ufficio presenze assenze. È una storia veramente stupenda, perché sarebbe stato lui a dover controllare, evidentemente. Ma al di là di questo si pone il tema più generale. Lo ha rilanciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, tra l'altro salernitano, il quale ha detto, facciamo come all'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno, dove abbiamo introdotto, dopo che c'è stato un caso simile, sono state introdotte le impronte digitali per l'accesso, quindi non più il cartellino, non più gente che può timbrare in maniera multipla. Se ricorderete, qua ad effetto giorno ce n'eravamo occupati di questa vicenda dell'ospedale di Salerno ce n'eravamo occupati all'avvio. Siamo in linea con Nicola Cantone, che è il direttore generale del Ruggi d'Aragona. Buongiorno Cantone, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi, grazie. Allora, da quando ci siamo sentiti, come sono andate le cose? Come sta funzionando la cosa? Sta funzionando egregiamente, dal 1° dicembre è entrato in vigore il sistema per il plesso Ruggi d'Aragona. Questa è un'azienda articolata su 5 plessi, dal 1° gennaio anche a Cava dei Tirreni, a Mercato San Severino, al Da Procida di Salerno e al Costa d'Amalfi di Castiglione di Ravello. E le cose stanno funzionando complessivamente. Vogliamo ricordare una cosa, Cantone, che naturalmente questo ti consente la verifica di quelli che timbrano magari in 20 che timbrano da soli per 20 persone, no? Però non ti consente il controllo di chi striscia il badge o mette l'impronta digitale e poi se ne va dal lavoro, no? Assolutamente, questo è un sistema col quale si risolve definitivamente il problema delle, come dicevate voi poc'anzi, delle timbrature seriali, cioè del dipendente che fa una molteplicità di timbrature. Non risolve quello del dipendente infedele che magari timbra o con il badge o con l'impronta digitale e poi si allontana, ma per questo abbiamo delle dei sistemi di controllo interno abbastanza efficienti e ciclici. Sì, non credo, scusi, rispondo ad un ascoltatore, non credo che qualcuno abbia intenzione addirittura di tagliarsi il dito e per far timbrare al collega al posto suo. Non è possibile perché l'impronta rileva il dito vivo, quindi tiene presente, tiene conto della pressione arteriosa. Quindi avete tenuto in considerazione anche questa ipotesi, Cantone? No, più che l'abbiamo tenuta in considerazione il sistema che prevede questa rilevazione. Quindi a noi fa piacere che sia così, ma è il sistema che prevede una rilevazione a dito vivo. A dito vivo, no, perché giustamente, Cantone, immagino che qualcuno si possa far fare un dito di gomma con la propria impronta, là saremmo veramente veramente veramente ai massimi livelli, e consegnare una serie di dita di gomma ai colleghi per fare. Diabolico che dir si voglia. Sì, saremmo al diabolico. Senta, qua qualche ascoltatore, come sempre, ci scrive, dice: ma qua nel privato si licenzia in tronco. In realtà, dalle norme che sono state varate un paio di settimane fa, è previsto esattamente questo, nel senso ci sono la sospensione delle prime 48 ore e poi la possibilità di licenziamento entro il mese successivo, no? Ma questa è un'azienda che ha già adottato questa linea di condotta, perché la precedente direzione aveva già licenziato 7 dipendenti immediatamente nell'immediatezza dei fatti, in tempi non nelle 48 ore come prescrive la normativa in itinere, ma l'ha fatto nel giro di un mese e mezzo. La ringrazio. 7 dipendenti licenziati. Sette licenziati. Hanno già fatto ricorso, Cantone? Hanno fatto ricorso alcuni e sono stati anche respinti. La ringrazio. Grazie Nicola Cantone per essere stato con noi, direttore generale dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Noi adesso ci fermiamo, poi ci ritroviamo, riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Andremo innanzitutto in Liguria, dove c'è stata una spaccatura molto forte tra i sindaci sull'apertura ai migranti, sulla distribuzione dei migranti nelle varie città. C'è stato il sindaco di Diano Marina che addirittura ha dichiarato barricate se si supereranno le quote, mentre il sindaco di Ventimiglia, che sarà nostro ospite, un po' non ne può più perché è il nostro punto di confine, ci passa tantissima gente. E poi, come promesso la settimana scorsa, iniziamo il nostro giro che proseguirà a lungo tra i comuni terremotati che non vogliamo abbandonare. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli: la insegue, le stringe un laccio al collo e torna fuori dal carcere dopo 48 ore perché secondo il GIP non tentò lo stupro. Continua a salire l'inflazione, crescita ai massimi da 4 anni, il cosiddetto carrello della spesa sale del 3,1%, mai così dal 2009. Stasera primo discorso al congresso di Trump, il presidente annuncia un aumento delle spese militari per 54 miliardi di dollari. Il ritorno di Montalbano in TV con un nuovo episodio fa il botto di ascolti, 10 milioni di telespettatori con il 40% di share. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Oh, lo voglio dire agli ascoltatori che ci scrivono su questo tema, ma del resto, come avete sentito, lo abbiamo chiesto anche a Nicola Cantone, il direttore generale del Ruggi d'Aragona di Salerno. È effettivamente vero, il sistema delle impronte digitali ha un funzionamento solamente parziale per le verifiche sull'assenteismo, perché funziona molto bene per evitare il fenomeno dei cosiddetti timbratori seriali, gente che, come nel caso dell'ospedale Loreto Mare di Napoli, aveva fino a 20 cartellini di colleghi e li timbrava tutti per consentir loro di fare quello che volevano. E questo è già un piccolo vantaggio. Dall'altra parte però non risolve il problema invece di chi appunto timbra e se ne va, perché così come timbri, metti l'impronta digitale, poi prendi e te ne vai, vai a giocare a tennis come nel caso di un medico, vai a appunto a fare lo chef in un ristorante nell'area vesuviana, invece di lavorare come impiegato tra l'altro del settore presenze e assenze dell'ospedale Loreto Mare. Che storia meravigliosa. Enrico Ioculano, sindaco di Ventimiglia, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. E siamo in Liguria, dove ieri c'è stata una spaccatura, leggiamo, abbastanza forte tra i sindaci, soprattutto i sindaci di centrodestra e quelli di centrosinistra, sul tema dell'accoglienza di profughi e migranti, soprattutto sul tema delle quote, sindaco, no? Nell'incontro che avete avuto ieri. Sì, una spaccatura, insomma, dal punto di vista un po' più politico, forse sulla gestione del fenomeno, perché il documento mi sembrava tutto sommato abbastanza razionale, quindi insomma siamo scaduti in beghe politiche. Lei dice, che cosa diceva questo documento? Cosa c'era scritto? Ma guardi, si riprendeva il piano nazionale di distribuzione delle quote e si faceva tutto sommato una proposta ligure, mediata e pesata, tenendo conto di quelle che sono le realtà che noi tutti conosciamo. Quindi insomma avevamo, come si può dire, l'ambizione di gestire e mettere una parola in più dal punto di vista del territorio sulla questione migranti. Due ospiti per 1000 abitanti nel capoluogo di regione, 6 ospiti in tutti i comuni al di sotto dei 2000 abitanti e i rimanenti migranti distribuiti equamente, no? Nella fascia che sta in mezzo. Questo era più o meno, leggo qua dalle pagine del giornale locale più importante, che è il Secolo XIX, questo era più o meno sostanzialmente il piano. Là appunto si sono sollevate un po' di barricate, a partire dal sindaco di Diano Marina, che dice barricate se si superano le quote, e poi c'è lei che in una situazione particolare, perché Ventimiglia, lo sappiamo, è il nostro confine, è il luogo nel quale le persone, per così dire, si ammassano, no? Nel tentativo di passare dall'altra parte, di andare in Francia e magari poi dalla Francia di prendere la via del nord Europa. In che situazione siete adesso, sindaco? Ma guardi, io ho fatto questo tipo di discorso. Ventimiglia è una situazione del tutto atipica, come ce ne sono altre, in cui non è lo Stato che ci dà delle quote, ma sono le quote che arrivano direttamente da noi, no? Per valicare il confine. Noi oggi siamo in una situazione per cui, rispetto allo scorso anno, pur essendo in una stagione invernale, ci sono un numero non importantissimo, però continua ad esserci un flusso di arrivi. Oggi saremo intorno alle 200 persone, 250, quindi non sono numeri preoccupanti, però è preoccupante il fatto che, nonostante siamo a fine febbraio, a primi di marzo, ci siano ancora questi arrivi. Lei dice quando ricomincia il bel tempo, quando ripartono gli sbarchi, eccetera, quindi, eccetera, il rischio è che questo numero si incrementi, certo. Effettivamente sì, infatti bene fa, a mio avviso, il governo a tentare una strada con degli accordi con i paesi del Nord Africa, altrimenti insomma è difficile pensare, se c'è questo spirito e questa collaborazione tra le diverse città e le diverse comunità, che si riesca a gestire questo tipo di fenomeno. E che cosa dice lei? Cioè, quale dovrebbe essere la strada? Ma allora, guardi, nel caso in cui si dovessero raggiungere degli accordi con il Nord Africa, quindi si riesca a diminuire il flusso in ingresso, vuol dire riuscire a respirare quantomeno e riorganizzarsi, capire quale altro tipo di gestione si può fare. Se i numeri rimangono questi di oggi, è evidente che ci sia la necessità di redistribuire meglio le quote. Non si può pensare che su 8.000 comuni soltanto 1.500-2.000 facciano il loro accogliendo, non tutti favorevolmente, non tutti con entusiasmo, però capisce bene che il cittadino che si trova a fianco a un CAS di 30 o 40 o 50 persone magari preferirebbe averne 10 o 15 che fanno un'attività anche di lavoro quotidiano sul loro territorio, piuttosto che vivere e subire una condizione di quel tipo. Perché? Perché dall'altra parte del comune c'è chi si nega a questo tipo di lavoro. Ma parla anche di comuni a lei vicini, immagino, a lei confinanti, no? Ma guardi, io che comuni confinanti sto portando avanti un discorso di SPRAR, pur avendo messo abbastanza come numeri, però deve passare una linea di principio che questo è un paese unico e quindi dovremmo iniziare a collaborare con questo spirito, anche perché oggi è il flusso migratorio, domani può essere un'altra cosa, non si può pensare che questo paese sia ancora il paese dei mille campanili. Sì, lo SPRAR, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori sempre, diciamo ci sono due meccanismi con i quali vengono distribuiti i richiedenti asilo, i profughi e i migranti in questo paese. Uno è quello centralizzato, quello che passa dal Ministero dell'Interno, ed è quello che forse ha creato il maggior numero di problemi in questi mesi, ed è quello che passa attraverso le prefetture, per cui le prefetture decidono dove collocare le persone, anche magari sulla base di un piano, anche sulla base di un piano organico, e poi c'è lo SPRAR, e a volte si impongono ai comuni, e poi c'è lo SPRAR, quello invece organizzato appunto in collaborazione con i comuni stessi. Io la ringrazio, grazie a Enrico Ioculano, sindaco di Ventimiglia. Iniziamo dunque il nostro giro che abbiamo deciso di fare, il nostro spazio che abbiamo deciso di dedicare più o meno quotidianamente ai paesi, alle zone colpite dal terremoto, perché un po' sta calando l'attenzione, stiamo rischiando, se vogliamo, di scordarceli, mentre invece è una cosa che non dobbiamo fare per tutta una serie di motivi, perché si avvia, ormai sono passati 6 mesi dalla prima grande scossa, quella di Amatrice, e la ricostruzione sta praticamente a zero, perché si avvicina il periodo di aprile nel quale tutti gli sfollati che si trovano in questo momento sulla costa, negli alberghi, dovranno essere mandati via, perché gli alberghi hanno i loro ospiti, e ovviamente si avvia una fase di lavori, di attesa per le abitazioni provvisorie che ancora non ci sono. Giuliano Pazzaglini, sindaco di Visso, buongiorno, benvenuto. Buongiorno anche a voi. Allora, come vanno le cose? Non vanno, quindi non posso dire né bene né male, perché la triste realtà è che non vanno. Io questa mattina ho avuto un incontro con i miei operatori, ai quali ho dovuto dire che se avessero scelto l'ipotesi prevista nel 408, nell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile per le attività produttive, avrebbero potuto avere dei moduli dove poter esercitare la propria attività. Moduli da 15 metri quadrati che sarebbero stati uniti per alcune attività, comunque realizzando delle soluzioni del tutto inadeguate. E poi ho dovuto spiegare che l'alternativa costituita dall'ordinanza 9 per le delocalizzazioni in realtà ancora non la conosco, perché nonostante fosse evidente la sua inadeguatezza, ancora è in discussione la modifica della stessa. Non sappiamo quando verrà ultimata questa discussione, non sappiamo quale sarà il contenuto finale della norma. Io so che è fondamentale per la sopravvivenza della mia economia, ma a 6 mesi dal terremoto ancora non so dell'economia, cosa prevederà questa ordinanza. Dell'economia, Pazzaglini, e ovviamente anche della comunità, naturalmente, della stessa comunità ovviamente, di Visso. Anche perché la nostra economia è basata su un equilibrio economico-sociale che è imprescindibile, ma non solo la nostra, immagino tutte le comunità medio-piccole. Quindi senza autosufficienza economica non siamo in condizioni di trovare delle alternative. Questo equilibrio non può essere alterato impunemente, perché rischieremmo di rendere inutile tutto il resto. Cos'è che non sta funzionando esattamente? Cos'è un'eccessiva burocratizzazione? I provvedimenti varati che sono stati sbagliati? Che cosa, Pazzaglini, a suo giudizio? Allora, secondo me è stato sbagliato l'approccio. Rinnegare completamente una normativa che comunque aveva funzionato, parlo della legge 61 del 1998, è stato un errore. Aver duplicato le competenze è stato un errore, e non aver ben chiaro come verrà finanziata questa ricostruzione è un limite enorme. E faccio anche un esempio pratico. Allora, al di là che ancora manca l'elenco delle banche convenzionate per poter ricostruire, e quindi significa che se uno non è disposto ad anticipare i soldi non ricostruisce, ma aver coinvolto l'Unione Europea significa aver aggravato ulteriormente una macchina burocratica che era già mostruosa, perché l'Unione Europea ti chiede una rendicontazione che enti piccoli, come mediamente sono quelli colpiti dal terremoto, non si potranno permettere mai di realizzare. Quindi di fatto si sta sovraccaricando un sistema che era già al limite dall'implosione. E francamente sono molto preoccupato. E tra l'altro un sistema che lavora in condizioni precarie come quelle nelle quali lavorate voi, così come molti altri comuni, no, colpiti dal sisma. Cioè, perché, non so, anche le condizioni nelle quali lavorate immagino che non siano facili, no, Pazzaglini? Allora, noi siamo stati accampati per 3 mesi, ma letteralmente accampati in 2 stanze, 10 posizioni per 15 operatori, perché poi lì si appoggiavano anche i vigili del fuoco, l'esercito, i carabinieri. Io dovevo chiedere al vigile di lasciarmi il computer per rispondere alle mail e viceversa. Ci siamo letteralmente inventati una procedura che ci ha portato in tempi rapidi ad avere una sede. Dico inventati perché non era prevista nella normativa, ma secondo me è decisamente migliorativa, perché abbiamo speso o uguale o meno, non abbiamo cementificato un'area nuova, abbiamo recuperato un edificio fatiscente, condizioni di avanzato degrado, che poi restituiremo alla fruibilità della popolazione, ho avuto difficoltà anche a rendicontare questa operazione. È evidente che si sta perdendo di vista l'obiettivo. L'obiettivo sono le persone e la ricostruzione. per poter raggiungere questi obiettivi bisogna essere efficienti, e se non la creiamo questa efficienza, purtroppo ci perderemo per strada. Grazie Giuliano Pazzaglini, sindaco di Visso. Continueremo a parlare con i sindaci e le comunità remotati e non solo con loro. Una piccola nota all'ascoltatore che scrive via SMS: perché ridiamo quando parliamo dei medici e degli assenteisti di Loreto Mare? Guardi, che non è che ridiamo perché chissà che cosa, ridiamo per non piangere. È una cosa talmente imbarazzante le cose che abbiamo letto e che abbiamo visto, che questo è Traffico Platero. Ci risentiamo alla fine per i saluti.